vostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Vedo che ancora la lezione proprio non ti entra in testa, eh? Vai, no. vai sopra la canzone. Ora è così, Deborah, è così. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Ma perché oggi siamo in una formazione particolare, vogliamo dirlo subito? Beh, allora se ne saranno accorti gli amici che hanno il piacere di seguirci con il live su Facebook e ti vedono lì da solo, avranno pensato che mi hai fatto fuori, invece sono qua e facciamo anche sorridere il nostro ospite. Sono gli Studi Romani, ma non in vacanza come suggerisce la canzone dei Mattia Bazar. Per ragioni di lavoro sono qua, però ecco, oggi siamo due separati nella medesima casa del Sole 24 Ore, Mauro. Ma forse giusto? Abbiamo anche separato le residenze, qua sai, per risparmiare sulle tasse, a volte si fa questa... Bella quella notizia là, ai nostri ascoltatori piacerà tantissimo se la vorremmo approfondire prossimamente, ma la vuoi ricordare? Perché in realtà la cronaca in questi giorni ci aiuta con tanto materiale da approfondire nelle nostre prossime puntate. Qual è la storia dei due coniugi, cos'è che hanno combinato? Sono proprio contento che tu me lo chieda, perché vuol dire che leggi religiosamente norme e tributi. No, come mi sempre raccolgo in preghiera fare. Con il rosario in mano, stai scherzando? Certo. E perché è stabilito che insomma uno non può fare il separato e vivere poi sotto lo stesso tetto. E allora noi invece, per poter fruire delle agevolazioni fiscali, abbiamo deciso di separarci almeno per un giorno. Poi vedremo se chiederemo a Giovanni Parente, che vedo lì con te oggi a Roma. Esatto, Giovanni Parente. Lo proclamiamo giudice del giorno per la nostra vicenda personale. Giovanni, ciao, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Lui si collega spesso dagli studi di Roma, ma in genere deve stare da solo senza un conduttore accanto, quindi oggi sono scesa a fargli compagnia, anche perché deve raccontarci la storia di suo cugino lo spesometro. Sì. E quindi ho proprio bisogno di essere accompagnata per mano per comprendere questo argomento che direi che è un po' complesso per i miei parametri e poco, Mauro, per cui guarda, sai che te lo lascio tutto quanto. Mauro, sì, mi vedi? Scusatevi, cosa stai guardando? Perché, Peter Bescapè, già lo so. Peter Bescapè mi stava dicendo una cosa importante, che dico anche agli ascoltatori. Abbiamo uno stacco per una breaking news, per aggiornamenti dall'esplosione nella metropolitana di Londra. Quindi ci fermiamo un attimo, due dinari, ritorna tra poco. Gli artificieri della polizia di Londra stanno disattivando un secondo ordigno esplosivo trovato nella metropolitana di Pearson Green. Lo scrive il Daily Mail. Il tabloid cita una giornalista che avrebbe ricevuto questa informazione da un poliziotto sul luogo. E allora naturalmente ritorniamo con due di denari, ma restiamo sempre disponibili alle breaking news. Vi aggiorniamo in continuo qui da Radio 24 e naturalmente anche sul nostro sito sugli sviluppi di questa esplosione che c'è stata nella metropolitana di Londra, stazione di Parsons Green, e che avrebbe provocato dei feriti. Questo al momento quello che siamo riusciti a sapere, ma via via appunto vi terremo informati. Allora torniamo, allora, Deborah, sì, esatto, sulle nostre vicende invece di soldi, di fisco, esatto, e soldi oggi. Perché tu oggi mi obblighi a riesumare un argomento che avevo lasciato da parte, avevo anzi proprio abbandonato da molto, perché in passato, quando questo tema era al culmine della sua popolarità, anche se sarebbe più corretto dire della sua impopolarità, gli ascoltatori mi detestavano ogni qualvolta lo proponevo, lo spesometro insieme a lui, il suo grande cugino redditometro, no? Allora, siccome vivono invece ancora tra di noi in grande salute, anche se silenziosamente, ogni tanto richiedono un po' di visibilità. Ci sono delle notizie da raccontare. Ma che riguardano, Mauro, queste notizie? Cerchiamo anche un po' di attirare attorno a questo tema qualche ascoltatore che magari può anche chiamarci all'800 24 00 24. Sicuramente, oppure può scriverci come al solito 349 238 6666, è l'abituale numero per i vostri sms o per WhatsApp se lo preferite. Ma allora io chiamo subito in causa Giovanni, perché qui quest'anno abbiamo avuto, devi saperlo Deborah, un calendario fiscale particolarmente tormentato. Per la gioia dei commercialisti. Sì, ma anche diciamo per la gioia di Giovanni Parente, che lo ha raccontato volta per volta. Allora, attualmente noi siamo nell'imminenza di due scadenze. Entrambe riguardano l'IVA, ma sono diverse. L'una il 18 e l'altra il 28 di settembre. Poi altre scadenze vigilano su di noi, già ci guardano con occhio, diciamo, truce, perché quindi attendono. Il 28 non solo arriva la bolletta delle compagnie telefoniche, perché adesso si sono inventate, punite consente dell'AGCOM appunto di fatturare il 28 di ogni mese, arriva anche un adempimento IVA, quindi veramente alla fine del mese dobbiamo scappare da qualche parte. E il giorno 28 diventa un giorno abbastanza importante, mi sa che avremo, come dire, una puntata abbastanza ricca in quella data. Ottimo. Segniamocelo. Allora Giovanni, sì. Ci sono due, come dicevo, due scadenze che riguardano l'IVA, però sono l'una il 18, l'altra il 28, sono finite lì perché non erano nate lì, ma sono diverse, l'una è una novità, l'altra meno. Ci fai un po' un riassunto a beneficio di tutti quanti, me compreso? No, me compresa pure, direi, anzi soprattutto per me. No, sono due adempimenti, cioè due comunicazioni che sono nate con finalità anti-evasione. Erano nate nella manovra, nell'ambito della manovra dell'anno scorso e hanno anche l'obiettivo di far recuperare un po' di soldi allo Stato. Si stima che nel 2017 dovrebbero entrare 2,1 miliardi, quindi insomma non è proprio poca roba, che tra l'altro dovrebbe essere destinata anche a coprire l'anticipo pensionistico, l'APE. Quindi insomma sono soldi su cui il fisco fa molto affidamento. La prima, andiamo in ordine di tempo, la prima è in realtà giunge al secondo appuntamento, perché la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, quindi sostanzialmente, ve la dico un po' banalizzando, di quanto è il saldo tra il dare e l'avere dell'IVA versata o non versata nel secondo trimestre dell'anno, quindi diciamo dai mesi che vanno da aprile a giugno. Questi dati servono al fisco perché incrociandoli riesce a vedere appunto se c'è qualche anomalia rispetto a quanto si doveva versare e quanto effettivamente è stato versato. Il secondo appuntamento, scusatemi, è lo spesometro. Ne abbiamo parlato tanto in passato. Quest'anno che cosa cambia? L'adempimento diventa semestrale, non è più annuale. Quindi arriveranno tutti quanti i dati del primo semestre del 2017. È una comunicazione che ha subito già due proroghe, mezzo cambiamento. Per quest'anno è diventata semestrale, doveva essere trimestrale. Alla fine dei conti, sostanzialmente, il popolo delle partite IVA dovrà comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute. Diciamo che quindi se i dati delle liquidazioni IVA servono in qualche modo a intercettare l'evasione da omesso versamento, questo adempimento serve a intercettare l'evasione da chi non emette fattura, chi sottofattura, e quindi in qualche modo prende un po' un'area un po' più vasta di evasione, perché l'intersezione dei dati dovrebbe consentire al fisco di avvisare in tempo reale il contribuente, digli che cosa vuoi fare, vuoi metterti in regola, ci risulta che ci sono queste anomalie, oppure ci spieghi perché ci hai comunicato questi dati rispetto a quello che risulta il tuo volume d'affari dichiarato. E da questo c'è un meccanismo ovviamente a filiera che ti consente non solo di recuperare l'IVA, ma anche le imposte sui redditi che avresti dovuto versare, quindi l'IRPEF o l'IRES per le società, su quelle fatture che chiaramente hai emesso, perché certo. quello è un volume di ricavi. Questo è il meccanismo spiegato per sommi capi. Ovviamente c'è tutto un cotè che riguarda molti professionisti che sono alle prese in questi giorni per capire. No, che contro questa rimodulazione del calendario fiscale mi pare che addirittura i commercialisti si erano sollevati, pronti anche a incrociare le braccia, a fare sciopero, no? Sì, ti ricordi Deborah, ne avevamo parlato all'inizio anno, c'era proprio pendente la minaccia di uno sciopero da parte dei commercialisti, poi ritirata in cambio della promessa di un tavolo di semplificazioni. Tavolo di semplificazioni che dovrebbe ripartire, sta ripartendo nei prossimi giorni, il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate ha anticipato una task force per semplificare sia il linguaggio interno dei provvedimenti del fiscali, sia appunto il calendario. Vedremo che cosa succederà. Certo, quest'anno ne sono successe veramente di tutti i colori. Un decreto arrivato, poi corretto in corsa. Tra l'altro, noi siamo andati su Sole 24 Ore dicendo che questo decreto non arrivava, non dando certezze per la data in cui un contribuente deve versare le tasse, non ricevere, versare le tasse. Quindi questo è anche sintomatico, una mancanza di rispetto nei contributi dei contribuenti italiani. Poi un altro provvedimento, appunto, che ha spostato alcune date, tipo quella della dichiarazione dei redditi. Chi faceva il vecchio modello, quello che si chiamava unico fino all'anno scorso, quest'anno si chiama redditi, avrà più tempo fino al 31 ottobre, ma anche lì è stato un parto abbastanza molto complesso da questo punto di vista. Giovanni, scusami se ti interrompo, in questo tourbillon di date che abbiamo raccontato, che tu hai riassunto adesso anche se ovviamente in maniera anche molto esatto, sentita, partecipe direi. Beh, per noi, devo dire che per noi a raccontarlo è stato difficile, ma puoi immaginarti Deborah che cosa non sia stato per i professionisti che di volta in volta dovevano, come dire, aggiornare il calendario, buttare l'agenda e prenderne una nuova e fare i conti, esatto, con una scadenza diversa. Tra l'altro a volte anche come dire, dire, lo spostamento di scadenze poi comporta sempre, come sappiamo, altre scadenze che si spostano a cascata, eccetera, eccetera. Ma quello che volevo chiedere a Giovanni è, queste date del 18, vabbè, ormai ci auguriamo che non cambi più, e questa è il 28 settembre, non è che tira aria di proroga un'altra volta, perché sarebbe abbastanza deleterio arrivati a questo punto. Guarda Mauro, io la mano sul fuoco non ce la metterei mai quando si tratta di scadenze fiscali, però insomma in questo caso siamo abbastanza convinti che, essendoci stata una proroga al 28 volutamente, perché non è stata spostata al 30 che era sabato, altrimenti sarebbe rinviata al 2, c'è stata una scelta precisa che evidentemente quegli obiettivi di gettito che dicevamo all'inizio vanno centrati, quindi insomma al momento è abbastanza complicato e improbabile, poi del domani non c'è certezza, quindi assolutamente, non giuriamo sul calendario fiscale, mi raccomando, lo consigliamo anche agli ascoltatori. Invece, scusami Deborah, ci stanno scrivendo naturalmente 348239. Stai guardando WhatsApp? Sto guardando WhatsApp, sì, che è una cosa che mi fa sentire molto giovane. Allora, innanzitutto il giorno 28 qualcuno ci segnala, no, ma non è che il 28 paghiamo, è che le compagnie hanno deciso di fatturare ogni 28 giorni. È vero, vi rimandiamo però appunto, avevamo segnalato, era stata proprio Deborah due settimane fa a segnalarlo in macro. Cos'è questa estate? Esatto, perché questa c'è prassi anche nuova della fattura ogni 28 giorni. Anche perché, siccome le compagnie sono e sanzionate e multate e richiamate, ma aggirano come meglio credono ogni volta ogni tipo di intervento che le autorità di vigilanza fanno, a questo punto si sta meditando anche di fare un provvedimento di legge per arginare questa pratica, che dire dal punto di vista commerciale scorretta è poco. C'è un deputato appunto del PD, la Morani, che era venuta proprio a spiegarci che cosa avrebbe in mente di fare, quindi vedremo intanto se riusciranno a portare avanti questa iniziativa. Per il momento la GCOM, l'autorità garante delle comunicazioni, appunto infligge una nuova sanzione, ma noi torneremo sicuramente a parlarne, perché poi come consumatori diamo ogni tanto anche qualche suggerimento su come difendersi da queste pratiche, come si esercita il diritto di recesso. Siamo anche molto contestati anche per dare questo suggerimento. Detto ciò, Mauro, noi stiamo anche un pochino dalla parte dei consumatori. Certamente, io rinvio naturalmente alla lettura oggi è su tutti i giornali questa notizia dell'iniziativa della GCOM, dell'Agenzia delle Comunicazioni, ma in particolare sul Sole 24 Ore Andrea Biondi segnala appunto che della multa e della legge, che tra l'altro è stata adeguata, la sanzione verrebbe adeguata proprio in virtù della famosa legge concorrenza, che come sai per noi sta diventando un faro, un riferimento costante. Esatto. No, dovremmo anche riguardarla, ripassarla per vedere se c'è rimasto fuori qualche argomento. Sicuramente. Qualcosa c'è. Allora torno su Giovanni, perché ci scrivono un sms e dicono: ma che semplificazioni, qua comunico i dati delle fatture emesse e ricevute 4 volte all'anno, più le trimestrali 4 volte l'anno, più gli altri dati. Insomma, il sospetto, Giovanni, è che le richieste del fisco, di dati da parte del fisco siano davvero molte, e quindi molti si chiedono anche: ma a che serve poi? Cioè, davvero abbiamo in questo modo una maggiore efficacia per contrastare l'evasione? Mauro, esattamente questa domanda è: serve davvero tutto questo sforzo che stiamo mettendo in campo? Allora, sul Sole 24 Ore del lunedì con Cristiano Lossi abbiamo scritto che arriveranno circa 20 miliardi di dati all'Agenzia delle Entrate tra questi due adempimenti. La capacità adesso è del fisco, che una volta richiesti deve saperli incrociare, farli funzionare, farli girare, come si dice, insomma, e metterli a frutto per poter effettivamente mandare queste comunicazioni preventive, che dovrebbero evitare poi di mandare accertamenti a distanza di anni che non si sa che fine fanno, poi diventano cartelle non pagate. Con la comunicazione preventiva cerchi di prenderlo prima, quello che non è stato versato, non dichiarato, e portartelo a casa immediatamente, evitando un procedimento insomma, che rischia di disperdere poi il recupero e anche l'attività di lotta all'evasione. Però cioè, al momento c'è un punto interrogativo. Certo, la sfida è enorme sulla strada delle comunicazioni di si chiama compliance, chi parla bene la chiama così, cioè su questa strada delle comunicazioni preventive il fisco si sta scommettendo. Quest'anno ne dovrebbe inviare complessivamente 600.000, non solo spesometro e liquidazione dativa, ma complessivamente anche per i redditi da cedolare secca, ad esempio non dichiarati, per redditi di lavoro autonomo non dichiarati. Ti fermo un istante Giovanni, perché qui con noi Katia Caramelli, abbiamo abbiamo un ulteriore aggiornamento sulle vicende londinesi. Katia. Sì, ben ritrovati. Poco fa Scotland Yard con un tweet ha detto che quanto accaduto a Londra è un episodio di terrorismo, dunque la conferma di quello che ovviamente già si era ipotizzato. Grazie, grazie Katia. Allora, come sempre, restiamo in contatto, interrompici quando vuoi, appena abbiamo aggiornamenti su questa vicenda. A questo punto possiamo dire proprio di terrorismo che si è verificata nella metropolitana, sulla metropolitana di Londra. Giovanni, io ti lancio un'ultima cosa, le sanzioni. Ma se uno dice io non ce la faccio a mandare tutte queste cose, i professionisti sono anche abbastanza preoccupati. Allora, o magari dato quante sono, magari qualcuno ne sfugge anche in buona fede, è possibile che possa accadere anche questo e può essere anche penalizzato in termini sanzionatori anche per questa ragione, non so, io parlo sempre da Alice nel paese delle meraviglie su questi temi. Le sanzioni ci sono, sono sanzioni proporzionali e all'omessa in invio complessivo dei dati o anche in caso di errori non corretti, però c'è anche un meccanismo che è stato previsto di possibilità di correzione rapida, che quindi consente sostanzialmente attraverso un meccanismo che lo banalizzo di ravvedimento di ridurre fortemente l'impatto sanzionatorio. Però mi preme segnalare una cosa, che ne parlavo con alcuni dei nostri esperti, che insomma non è un adempimento semplice, perché l'abbiamo poi scritto anche su Sole 24 Ore, c'è qualche problema nell'invio dei file, c'è qualche problema, ci sono alcune situazioni che scartano i file inviati, e quindi in questo momento commercialisti, professionisti, imprese si trovano alle prese con non saper che fare in alcune situazioni. Faccio per esempio una situazione che può essere molto generale, che è quella di avere una partita IVA cessata della controparte, cioè non la mia che sto inviando, della controparte a cui ho messo fattura, e in quel caso il sistema rifiuta il file. E questo è uno dei problemi a cui aspettiamo risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni. Si parla tanto di una serie di risposte di FAQ, non di circolare, che non ci sarebbe il tempo. Speriamo che arrivi il prima possibile, proprio per agevolare ed evitare problemi anche in termini sanzionatori. Ricordo soltanto che un anno fa, allora era la direttrice Rossella Orlando, disse che sui primi invii sarebbe tenuto conto della sperimentalità, comunque della novità del sistema, quindi non sarebbe applicata. Siamo anche oggi, dicevo prima Mauro, dalla parte dei consumatori, ma anche dalla parte del povero Vito, un dottore commercialista che si firma frustrato perché dice l'evasore non fa lo spesometro, ed effettivamente sono strumenti come il redditometro nati proprio per combattere questa piaga pesantissima del nostro paese, e però insomma secondo me gli evasori totali non li becchi con lo spesometro, perché chi non fattura. Beh, come ci hai spiegato Giovanni, qui in realtà si tratta di incrociare più dati possibile per avere quantomeno una rete a maglie più strette e così rintracciare anche qualcuno. È un dato di fatto che però quest'anno abbiamo assistito a un notevole incremento degli adempimenti a carico dei professionisti, quindi poi sarà anche un problema, io mi immagino, nei confronti dei clienti, perché ci saranno delle incombenze in più, e queste incombenze in più andranno in qualche modo trattate con i clienti. Non so con quanta facilità riusciranno però i professionisti a spiegare tutti questi pasticci fiscali che oggi abbiamo provato a riassumere. Infatti, a proposito di un pasticcetto dei mesi scorsi, e non è un dolce con una ricetta nuova, Mauro, no? Dobbiamo riesumare, dai, in un paio di minuti ce la facciamo prima della borsa, anche l'altra questione che piace sempre molto quando la tocchiamo ai nostri ascoltatori, quella dei POS, no? Dei terminali per consentirci di pagare con la moneta elettronica nel caso andassimo, adesso devo fare attenzione anche al professionista che cito a puro titolo di esempio, o dal dentista o magari dall'idraulico che viene in casa, insomma sappiamo che nei mesi scorsi avevamo tanto parlato dell'obbligo per queste categorie professionali di dotarsi di POS per consentire ai loro clienti di pagare con lo strumento elettronico di pagamento, e però appunto avevamo anche tanto sorriso alla gamba mancante di tutto l'impianto, no, che è Le sanzioni. Ma oggi proprio Giovanni ci scrive, esatto, insieme all'amico Marco Mobili, che forse già stamattina arriva un decreto che, calmierando le commissioni, porterà anche all'applicazione delle sanzioni per chi non si dota del POS. Ho riassunto bene, Giovanni? Sempre di venerdì gli piazzano i consigli dei ministri a Giovanni per farlo lavorare tutto il weekend. Per farmi contento, sì. Sì, è vero Mauro, questo, si tratta, questo è un decreto che recepisce una direttiva comunitaria, esatto, la seconda direttiva servizi di pagamento. Quindi non è proprio una virtù nostra, insomma, esatto, che abbiamo voluto intraprendere questa iniziativa, ma ci arriva da Bruxelles come... C'è un sistema di calmieramento che è in due fasi, delle commissioni su bancomat e carte di credito, che appunto ha come data spartiacque una data non vicinissima, il 9 dicembre 2020, ma c'è comunque un'introduzione importante che sui micropagamenti il tetto non possa superare comunque un valore unitario di 5 centesimi di commissione di costo bancario. Questa potrebbe aprire la strada all'attuazione di un altro decreto che invece è tutto italiano, è ministeriale, quindi non stiamo parlando di un provvedimento dentro forza di legge, ma evidentemente una forza inferiore, che però deve attuare una norma della legge di stabilità 2016, che in realtà doveva essere approvata entro il 1 febbraio 2016, però non sta a guardare il capello, con calma, Giovanni, no, calma, noi no, facciamo con calma, riduce drasticamente appunto i pagamenti che bisogna accettare con POS, quindi col terminale per in cui si mette il bancomat e la carta di credito, da 30 a 5 euro, però allo stesso tempo fissa le sanzioni per chi non se ne dota, e che aspetto che non era stato finora fissato. Quindi questo decreto è in via di gestazione, sappiamo, ultimi aggiornamenti ci dicono entro fine settembre, più probabilmente metà ottobre potrebbe vedere la luce, poi naturalmente però viaggerà indipendentemente dalla legge di bilancio, sarà un discorso assolutamente a parte, quello è un decreto interministeriale tra Ministero dell'Economia e Ministero dello Sviluppo Economico, certo, quindi insomma dovrebbe essere un qualcosa che attua una disposizione che già c'è. Certo. Grazie Giovanni, vedrai che arriverà ottimo il 28, cara Debora. Intanto raccontaci come stanno andando i mercati. Sì, dai, magari anticipo anche quello che succederà dopo, perché ieri è stato diffuso un importante rapporto, il rapporto divulgato da Banca Intesa San Paolo, il centro Einaudi, che racconta ogni anno lo stato di salute dei risparmiatori italiani, ma in realtà li monitora dal punto di vista qualitativo. Pare che ci sia un po' più di fiducia, un ripristino della fiducia delle persone rispetto alla crisi degli ultimi anni, si ritorna a risparmiare ma non per far fronte solo alle emergenze, anche in termini di progettualità. È un rapporto con delle indicazioni molto interessanti, Mauro, per cui non vediamo l'ora di raccontarlo ai nostri ascoltatori. A tra intanto pochissimo. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Due di denari. Get back. Eh sì, perché i soldi sono una cosa seria, come recita Mauro la nostra sigla. È proprio ricordiamola così, ai nostri ascoltatori. Così, talmente seria che guarda. Visto che tra pochissimo parleremo con Giuseppe Russo del risparmio degli italiani, ti voglio ricordare domani, leggiamo plus, perché la borsa sta andando molto bene, ha guadagnato il 34% negli ultimi 12 mesi, mica poco. Piazza Affari, ti riferisci a Milano? Piazza Affari, sì. Uh-huh. Però adesso che si fa? Prendere o lasciare? Questo, quell'analisi che viene presentata domani su plus, come sapete tutti i sabati in edicola, il settimanale del Sole 24 Ore dedicato al risparmio. E come va il risparmio? Lo chiediamo allora a questo punto al nostro ospite che abbiamo in collegamento, il direttore del centro Einaudi. Buongiorno, dottor Russo. Buongiorno a tutti. E infatti, perché proprio ieri, lo ricordiamo, è stata presentata a Torino l'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani, edizione 2017. Questa è un'indagine storica che da anni monitora la propensione al risparmio degli italiani e soprattutto descrive le qualità, le caratteristiche degli italiani come risparmiatori, e negli ultimi 10 anni sono state raccontate delle cose molto interessanti, perché ovviamente si sono molto scoraggiati gli italiani, anche se in realtà hanno ridotto molto i consumi pur di continuare a mantenere invece una quota di denaro che entra in casa, nel bilancio familiare, oppure pur di continuare a dirottarlo in qualche forma di risparmio. Peraltro questa indagine, Mauro, quest'anno parla anche di investimento in borsa, che era stato molto trascurato negli ultimi periodi, perché ovviamente con questa crisi gli italiani sono andati a caccia di soluzioni di investimento che ritenessero sicure, prudenti e quindi conservative dei loro soldi, e invece adesso pian piano stanno riaffacciandosi in borsa. Potremmo partire proprio da questo punto col dottor Russo, cosa ne pensi? Assolutamente, partiamo volentieri, perché è importante se si muovono un po' i denari in qualche modo, con oculatezza sempre, però anche tenendoli fermi si sa che sicuramente non ci si guadagna, anzi probabilmente si perde. È così, dottor Russo? Ma sì, è così. Gli italiani nell'ultimo anno hanno manifestato una maggiore attitudine a valutare l'investimento anche nell'arco di un periodo di tempo medio, cioè che va dai 3 ai 5 anni. In passato, o negli anni diciamo più difficili della crisi, la preferenza era viceversa per investimenti che consentissero di valutarne la performance nel giro di pochi anni e addirittura pochi mesi. Essendosi allungato un po' l'orizzonte in relazione al miglioramento delle condizioni dei bilanci familiari, sia l'investimento in borsa, sia l'investimento immobiliare che quello nel risparmio gestito sono stati un po' più graditi, meno, mentre l'investimento nelle obbligazioni, che è sempre stato il cavallo di battaglia dei risparmiatori italiani, è stato in qualche modo considerato meno appetibile. E questo oggettivamente perché le condizioni di rendimento del mercato obbligazionario sono state influenzate dalla politica monetaria che è caratterizzata da tassi di interesse, quindi rendimenti delle obbligazioni bassi. E questo è un punto. Per quello che riguarda invece, come dire, un po' la percezione generale dei risparmiatori italiani, cosa emerge, dottor Russo, di particolarmente forte dalla vostra edizione 2017 di questa indagine? Considerano ormai alle spalle l'aspetto più duro in cui si è manifestata la crisi degli anni recenti? Sono un po' più fiduciosi? In che cosa? C'è una parte molto importante anche dedicata ovviamente al lavoro, perché questa è direttamente correlata anche alla quantità di denaro che si riesce ad accantonare, a risparmiare. Poi c'è tutto il tema della progettualità che ritorna molto evidente nell'atteggiamento dei risparmiatori. Ma noi quest'anno abbiamo visto intanto una crescita della percentuale di risparmiatori di capofamiglia che ha dichiarato di essere finanziariamente indipendente, quindi questa è cresciuta di circa il 10% e ormai è intorno al 90% del campione. Negli anni della crisi c'erano 10 punti percentuali di soggetti che in qualche modo dicevano di non riuscire a farcela, di non arrivare alla fine del mese. Quindi questa è la prima indicazione che noi abbiamo avuto. La seconda indicazione forte è che il risparmio che prima veniva accantonato, fino all'anno scorso, veniva accantonato preferibilmente e prevalentemente per far fronte ad eventi incerti, da quest'anno, come lei ha anticipato, assume delle direzioni, cioè ci sono delle intenzionalità, delle volontà dietro questo risparmio, e quindi gli investimenti si dirigono prevalentemente verso la protezione pensionistica in relazione anche alle riforme che sono state compiute negli ultimi anni nel sistema pensionistico pubblico. In secondo luogo i figli, il futuro dei figli, perché come sappiamo tutti le generazioni più giovani sono più deboli sul mercato del lavoro e quindi hanno necessità di essere in qualche modo oggetto di investimenti maggiori, e poi è tornato un po' anche la voglia di investire in case, magari in ristrutturazioni di case, ma questo è successo. E tutto questo è all'interno di un clima di, diciamo, maggiore disponibilità e maggiore serenità. Deborah, io mi intrometto per dire che ci hanno scritto, ci continuano a scrivere, ringraziamo, 349-238-6666. Un ascoltatore un po' polemicamente dice, beh, ditelo a quelli che hanno sottoscritto i prodotti delle banche risolte che non bisogna tenere certo. I soldi nel cassetto. Però, al di là del fatto che faremo presto una puntata proprio per capire come stanno andando le il cose... Il punto sugli indennizi, sì, sui ristori. Infatti, però c'è anche tutto il tema dell'educazione finanziaria, cioè a volte diciamo chi investe forse non è né adeguatamente informato oppure non è abbastanza preparato. Sappiamo che siamo debolucci e chiedo allora al dottor Russo se questa nostra debolezza in alfabetizzazione finanziaria mostra qualche segnale di miglioramento. Ma questo è proprio il punto, nel senso che quando parliamo di investimenti che sono andati male, ci riferiamo sempre a casi che in larga parte sono riferiti a portafogli che erano particolarmente concentrati esatto. In una sola forma di investimento, e cioè non c'era stata... Dottor Russo, noi la sentiamo un po' come se fosse su Marte, un pochino metallico, non so se si sta spostando con il telefono, riproviamo... Sì, no, quello che dicevo è che molto spesso queste storie certamente sfortunate sono collegare a portafogli che non erano stati diversificati e che avevano investito in una sola attività finanziaria che poi è andata male. In realtà la protezione totale del risparmiatore è pressoché impossibile e la tutela che il risparmiatore deve cercare passa attraverso la diversificazione degli investimenti. Si possono diversificare anche piccole somme investibili attraverso il risparmio gestito. Dal punto di vista della educazione finanziaria, quest'anno, grazie all'assistenza di un centro specializzato, cioè del CERP di Torino, abbiamo fatto 40 domande in particolari proprio sulla educazione finanziaria. So che avete utilizzato, dottor Russo, il metodo Lusardi, che ricordiamo oggi esatto. Presiede il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, e anticipa ai nostri ascoltatori che presto torna in Italia e presto io e Mauro Meazza la ospiteremo nel nostro programma. Chiusa parentesi, dottor Russo. Esatto, e qui abbiamo trovato che per esempio la comprensione della diversificazione del rischio è posseduta dal 50% degli italiani, percentuale che sale al 55% tra i 18-54 anni, cioè e che ovviamente poi è più bassa con la crescita dell'età. Dottore, no. La fermo un attimo perché dobbiamo dare le informazioni sulla viabilità, però resti lì perché torniamo subito per capire quanto stiamo migliorando, se stiamo migliorando nel capire i nostri risparmi e gli investimenti. Il traffico. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Due di denari. E bentornati a Due di denari, ma è tornata a trovarci Katia Caramelli per ulteriori aggiornamenti sull'esplosione avvenuta alla metropolitana di Londra, atto di terrorismo, così è stato già classificato. Katia, aggiornaci. Sì, almeno 20 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di questa mattina nella metropolitana. Poco fa ha parlato anche Theresa May. I miei pensieri vanno ai feriti e ai servizi di soccorso che stanno rispondendo coraggiosamente all'atto terroristico, ha detto la premier britannica. Naturalmente maggiori aggiornamenti in GR24 delle 12. Grazie Katia. Allora Deborah, torniamo a sentire il nostro ospite? Infatti, magari li mettiamo insieme se ritieni, Mauro. Io sto leggendo i messaggi, ce ne sono due piuttosto interessanti. Ci scrive un consulente finanziario che, riferendosi alla prima parte della descrizione di questo rapporto, dice: la verità è che gli italiani tornano ad affacciarsi alla borsa dopo che questa è già aumentata. Vero, però se si utilizza un metodo corretto come quello dei piani di accumulo, anche se sono su livelli alti e si acquista poco poco ogni mese, in realtà non è detto che che sia un momento non buono anche questo per riaffacciarsi alla borsa. E poi non sono tutte cresciute Wall Street sui massimi. Piazza Affari, rispetto per esempio alle Sine europee, è molto più indietro rispetto appunto alle altre borse, per colpa dei titoli bancari e tanto altro, per cui non tutte le borse sono cresciute nella stessa misura. Un altro ascoltatore, Mauro, non so se lo leggi, dice: la maggior parte della mia liquidazione sta su un libretto postale, la posta è ancora affidabile. Qui più che, allora certo che se falliscono le poste è meglio che ce ne andiamo a vivere non so dove, in un paese remoto di un altro pianeta. Detto questo, qui non è il tema è sempre quello che dicevamo prima, tutta la concentrazione di tutto quello che si ha in un unico strumento finanziario, Mauro, no? Possiamo tornare. È la famosa diversificazione di cui ci stava proprio parlando il dottor Russo, giusto? Se posso dire due cose a commento di questi interventi molto appropriati, sono più o meno i seguenti. La diversificazione non è solo una protezione contro la sfortuna, la disavventura o anche contro l'avversità dei mercati finanziari. È anche in qualche modo una tutela di riuscire a prendere una parte della crescita dei mercati quando questa avviene. Quindi al risparmiatore che ha investito tutto in un libretto postale, io naturalmente dirò che a quanto ci risulta i suoi risparmi sono al sicuro, ma sono comunque investiti in un solo asset, un portafoglio che è investito in tante forme diverse di investimento e probabilmente altrettanto sicuro, forse addirittura un po' più sicuro, e se ci sono delle opportunità su qualche mercato è anche in grado di coglierle. Quindi tra l'altro questi sul libretto postale non sono neanche investiti, sono lì accantonati, fermi, stabili, è uno strumento di liquidità, proprio uno dei più basici, per cui probabilmente starà tranquillo il nostro ascoltatore, ma magari perde qualche opportunità. Non è un giudizio, l'importante è saperlo, no, dottor Russo? L'importante, esatto, è saperlo e comprendere che il valore della diversificazione si manifesta sia sotto forma di tutela dagli eventi negativi, sia sotto forma di corretta esposizione alle opportunità dei mercati. Certo. Dottor Russo, la ringraziamo per essere stato con noi e ritorni a trovarci l'anno prossimo quando avrete completato la stesura del rapporto sul risparmio degli italiani edizione 2018. Buona giornata. Speriamo con notizie sempre migliori. Sempre migliori, grazie molte. Grazie Deborah, perché in questi ultimi minuti sai che è il momento della mia rubrica del venerdì. Ma no, guarda, sono qua come mi hai indicato ad inizio puntata, religiosamente ti ascolterò. C'è imposta per te. Ciao, sono Paolo da Brescia. Sono uno studente e proprietario di un appartamento che affitto tramite un portale online per affitti brevi. Quando arrivano degli ospiti, li accolgo sempre con un ricco cesto di benvenuto. Inoltre, mi offro come cicerone per far loro scoprire le principali attrazioni della mia città. Se richiesto, li porto dalla stazione all'appartamento. Metto a disposizione delle bici, faccio pulizie prima del loro arrivo e dopo la partenza. Registro il maggior numero di ospiti nei mesi estivi. Viste le recenti novità sugli affitti a breve termine, mi tocca dichiarare redditi da locazione o redditi diversi. Posso dedurre le spese per quello che offro ai miei ospiti? Ma se è così carino, perché non ci andiamo anche noi? Ma adesso prenotiamo, però ti voglio dire che ti ho fatto un doppio regalo, cara Deborah, perché ti ho anticipato una delle domande che presenteremo con allegata risposta sull'Esperto Risponde del prossimo lunedì. Sai, la rubrica che tutti i lunedì dà dei chiarimenti, e questa domanda è arrivata proprio nella settimana in cui abbiamo parlato della nuova tassa sugli affitti brevi. Allora, redditi, cara Deborah, redditi diversi o redditi da locazione? Ti e che succede delle spese? E sono problemi. Il dubbio amletico però va risolto subito, lo diciamo, diamo subito la soluzione. Tocca andare nei redditi diversi. Così almeno si può dedurre qualcosa delle spese. Attenzione però, perché poi se uno deduce un monte di spese un po' incongruo, il fisco ti guarda, non è solo l'IVA che ti non guarda. Non solo l'IVA, ecco. E allora ti potrebbe chiedere qualcosa. Quello che è importante è, se lui lavora con i portali, il portale gli farà la ritenuta. quella di cui abbiamo parlato quella anche famosa, ieri. Il 21%. La cedolare secca. Ti sento molto preparata e me ne compiaccio. Ti farà, dicevo, la ritenuta, ma sarà in questo caso una ritenuta che si definisce a titolo d'acconto e non a titolo definitivo, a titolo d'imposta, come questa rubrica che si chiama C'è imposta per te. Certo. È tutto chiaro, Deborah? Ma me lo auguro che lo sia soprattutto per il nostro giovane imprenditore in erba e che tutto ciò non lo scoraggi dal proseguire in questa sua attività imprenditoriale, visto che una volta tanto abbiamo un giovane intraprendente e non vorrei mai che sia il fisco a... così costituire un po' da rappresentare il deterrente per la sua iniziativa di impresa. Lui si deve ricordare che c'è anche c'è un'imposta anche per lui, però. Sì, esatto. Intanto l'IVA ti guarda, ma ti guardo anche io dai monitor degli studi di Roma e vedo che il tempo corre e stiamo andando verso la chiusura di questa nostra seconda settimana insieme, Mauro. Per cui ritorneremo lunedì. Forse questa volta ce la facciamo anche a ringraziare, cosa che non facciamo mai, tutto lo staff che ci aiuta e sopporta, dico io, non supporta, perché è una vera sopportazione quella di noi due. Sono d'accordo. Chi hai di fronte a te? Ho davanti a me Peter Bescapè e di là dal vetro anche Marco Lombardo e poi voglio ringraziare anche Giulia Lauricella. Naturalmente io ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto e possono continuare ad esempio a mandarci delle email 2didenari@radio24.it. Benissimo Mauro, allora noi ritorniamo lunedì, a tutti buon weekend.